Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune settimane fa, ormai quasi un mese fa, nel Varesotto c'è stata un'iniziativa che io trovo semplicemente splendida, e quindi di questo noi daremo onore a questo fatto, lo daremo attraverso la voce del preside, ma andiamo con calma. L'iniziativa qual è stata? Questa scuola, il liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, ha organizzato una gita al tribunale di Busto Arsizio. Voi direte, oi boh, e perché? Lì si stava svolgendo l'udienza dibattimentale di un processo che si chiama Bad Boys contro i vertici di una locale di 'ndrangheta, vale a dire di un'associazione di 'ndrangheta proveniente dal Crotonese, segnatamente da Cirò Marina, che lì facevano, forse ancora fanno in parte, il bello e il cattivo tempo. C'è stata questa udienza dibattimentale. Oggi, il 23 novembre, dovrebbe esserci la seconda udienza in cui buona parte di queste persone, soprattutto quelle accusate di 416 bis, vale a dire associazione a delinquere di stampo mafioso, verosimilmente andranno verso il rito abbreviato. Bene, dicevo, questa scuola si reca in questo tribunale mentre c'è questa prima udienza dibattimentale con una maglietta con la scritta no. Io trovo tutto questo semplicemente fantastico in un paese che molto spesso chiude gli occhi di fronte alle mafie, soprattutto qui al nord, diciamocelo chiaramente. Una realtà, tra l'altro, quella di Lonate Pozzolo Legnano, che conosco benissimo perché tanto ne ho scritto sul Sole, ed un capitolo, anzi un paragrafo di un capitolo sulla Lombardia viene anche dedicato a questa situazione nel Varesotto nel mio libro Economia Criminale. E noi di questa spettacolare iniziativa ne parliamo con chi? Ma con chi ha avuto questa geniale pensata? Che è il preside del liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, Giulio Ramolini. Buongiorno professor Ramolini. Buongiorno a lei. Allora, come le è venuta in mente questa idea di portare i suoi alunni, anziché al parco giochi o a Parigi, di portarli in quest'aula di tribunale? Ma guardi, il discorso parte un po' da lontano, nel senso che noi l'anno scorso, alla luce della riforma, abbiamo rivisto un po' quello che è il piano della nostra offerta formativa. Abbiamo individuato quelle che noi denominiamo parole chiave, e tra queste c'è cittadinanza e legalità. Quindi nell'ambito di un'educazione alla legalità a 360 gradi ci è stata offerta questa opportunità, anche su segnalazione di un gruppo che tra l'altro ha come presidente regionale, comunque responsabile regionale, un ex studente del nostro liceo, che è l'associazione Ammazzateci Tutti. Sì. Siamo venuti a conoscenza di questa opportunità e mi pare, cioè, l'ho presa al volo. Insomma. Benissimo, guardi, le assicuro che non sono poi tanti quelli che l'avrebbero presa al volo questa opportunità, soprattutto nel nord, dove ancora la gran parte delle persone è convinta, nonostante tutto quello che accade, di essere immune dal fenomeno mafioso. Ed è proprio vero, per questo che è vero. Lei me lo conferma? Ormai è, cioè, ormai da tempo, no? È radicato anche nel nostro tessuto, insomma, si scopre magari in momenti particolari, in occasione di situazioni anche delittuose, eccetera, viene fuori questo sottoposto, certo, che esiste da tempo. Allora, io sono molto curioso di sapere come l'hanno presa i suoi ragazzi. Le hanno dato del pazzo, visionario, esagerato, non ha niente di meglio da fare nella vita, perché non ci ha portato al parco giochi, perché non ci ha portato al cinema. Mi racconti le esperienze dei suoi ragazzi, senza peli sulla lingua, dica sia nel bene che nel male. Certamente, no, anzi. Ma io, guardi, anche per esperienza nelle altre scuole che ho diretto nella mia breve comunque carriera di preside, ho un dialogo sempre aperto con questi ragazzi. Io dico sempre anche agli open day destinati ai ragazzini che verranno dalle scuole medie, che la porta del preside è sempre aperta. Quindi un dialogo diretto porta anche a vedere un po' quali sono gli umori, quali sono le tendenze, quali sono gli interessi. Certo. L'offerta è stata per una classe quinta, perché devono avere anche la giusta maturità. Indubbio. E i ragazzi l'hanno apprezzata molto, già come idea, e poi i risultati e i report che ci hanno riportato sono stati, a mio avviso, molto positivi. Ecco, lei mi ha tolto le parole di bocca, voglio dire, di rientro da questa giornata intensa che sicuramente io mi auguro sia destinata a segnare la loro vita, perché la scuola, come amo ripetere poi spesso ai miei figli, insegna ad imparare per il resto della vita. Quindi io mi auguro che questa lezione la portino sempre con loro. Ecco, i report, lei diceva, sì. Proprio volevo chiederle questo. Poi c'è stato un dialogo successivo al rientro, dunque. Certo, c'è stato un dialogo. Tra l'altro lei così va nella direzione in cui stiamo andando anche noi, perché abbiamo come obiettivo primario quello di formare degli uomini qui al nostro liceo. Quindi il discorso che facevamo di educazione e di responsabilità si inserisce pienamente. Lo stupore dei ragazzi è stato determinato dal fatto che, pur essendo un'udienza pubblica, praticamente il pubblico era composto solo da questa classe del nostro liceo più la docente che li ha accompagnati. Non c'era nessuno praticamente. Non c'era praticamente nessun altro, anzi si sono dovuti anche prendere un po', non dico le battutacce o gli improperi dei parenti, però qualche frase che tendeva ad una visione, a mio avviso, che non corrispondeva alla realtà. In dubbio, perché la conoscenza ovviamente dà fastidio alle famiglie che appartengono. Esatto, però si è messa su un piano di spettacolarizzazione dell'evento che non era assolutamente tale, no? Assolutamente, certo. Io tramite i giornali ho ricevuto la lettera di una moglie di uno di questi cattivi ragazzi dell''Ndrangheta che diceva: preside, lei dovrebbe sapere che non sono ancora stati certo, è una fase dibattimentale. Assolutamente, ma assolutamente la nostra protesta, la maglietta dei ragazzi voleva dire no a un certo tipo di violenza, certo. No a un certo tipo di comportamento, non si andava a giudicare nessuno. Assolutamente, non è imputati, non è vostro compito, così come nel nostro compito è mettere sentenze, per quello ci pensa la magistratura, ma è suo compito di formare uomini. Lei ha detto una frase straordinaria, o quantomeno di contribuire alla formazione di uomini, e il nostro compito, quello di giornalisti, è quello di far conoscere queste iniziative che contribuiscono ad una crescita collettiva di tutti. Ecco, è chiaro che questo è soltanto il primo passo, no, di quel percorso che dicevo di educazione. Assolutamente sì. Un'azione episodica che si esaurirà lì. Io mi auguro che ce ne siano ancora, anche se bello sarebbe augurarsi che non ce ne siano più, perché vorrebbe significare che non c'è bisogno di entrare in un'aula di tribunale per far capire ai ragazzi che purtroppo le manifestazioni di criminalità organizzata sono presenti ormai ovunque. Io ringrazio il preside, ripeto, del liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, Giulio Ramolini. Dico grazie a Paolo Corleoni in regia, Valeria Fare in studio, Roberto Galullo vi auguro una buona giornata, ricordandovi due cose: la mail sottotiro@radio24.it e il mio blog Guardie o Ladri. Buona giornata a tutti.